c'è qualcuno qua su 10? Ciao Roberto. Va bene, Alfa, tutto a posto? Sì, sta un po'. Stavo giocherellando come al solito con la radiolina per farle andare. Ogni tanto bisogna farle in modo, anche io ne ho. Sono ultimamente in questi giorni sono con questo, se no poi le alterno anche con le altre due dove utilizzo normalmente, anche se a qualcuno non li piacciono molto, però secondo me sono molto meglio di questa. Dipende da che radio sono. Ogni modello ha la sua peculiarità. Io ad esempio sono molto attaccato a quello, a quell'auto manuale che è fatto come è fatto, come deve essere fatto, quindi fatto bene, che è tutta un'altra cosa. Comunque anche gli altri sono abbastanza tecnologici, bisogna capire, avere il tempo di capire come funzionano, ma piano piano. Diciamo ognuno ha la sua cosa, diciamo questa che sto utilizzando adesso è una 27, di quelle un po' più evolute, quella che sicuramente è più apprezzata perché permette di avere una bella modulazione, però per altre cose preferisco le altre due che ho. Over, sono troppo vicino, adesso sto provando una cosa, come funzionava? Non mi disturbo neanche da un canale all'altro. Questa che cos'è, questa che stai utilizzando? Quella che dici tu, navale? No, la navale è spenta perché parte da una potenza eccessiva, cioè eccessiva, 25 watt, ed è esagerata per la 27. Qua, questa è quella che puoi regolare da 0 a 10, credo. Un watt e mezzo. Ieri ho detto se potevi ricevere su determinate frequenze pur rimanendo qua. Te facciamo con computer, potrei farlo però non in questo momento. No, senza computer, se no andiamo su complicato. Cioè, in parole povere, semplicemente servono due antenne lì. Spiegami di cosa stai parlando per capirci, perché magari se riesci a spiegarmi un po'. Allora, fermo restando questa, se io faccio una prova su una determinata frequenza, tu rimanendo qua mi puoi rispondere che mi senti? Ma tu parli in digitale? No, digitale, se parlo in digitale non mi capisce una mazza, quindi che senso avrebbe? Se vuoi ti faccio la prova, adesso passo in digitale con questo, però non mi capisci niente. No, non ti sto seguendo, cioè tu stai dicendo utilizzare lo split, cioè trasmettere per le 27.085 e ricevere un'altra frequenza, quello non riesco a seguire. Sì, al limite potrebbe anche andare quello, ma quello è un pochettino seccante. No, occorrono due radio, cioè una radio sei qua e puoi anche parlare con l'altra che potrebbe essere anche un ricevitore e puoi ascoltare da un'altra parte. Sì, il ricevitore lo posso fare, cioè parliamo più chiaro, qua siamo 27.075, tu quelli non ho capito, spiegamelo elementarmente perché non ti sto seguendo, il ricevitore vado da 0 a 2000 posso andare. Ed è collegato sempre a un'antenna separata. Certo, ce n'ho diverse di antenne. Oh, perfetto, era quello che stavo dicendo io, ma forse non mi sono spiegato molto bene. Niente, volevo vedere se effettivamente su una certa frequenza potevo operare almeno in città, ecco, in onda lunga. Dimmi la frequenza, i ricevitori ne ho diversi. C'è uno che fa il liceo del 7000 che fa da 25 a 2000, a 2 giga. Poi c'ho 0,30, l'altro che fa, vabbè, gli altri fanno 0,30. Non lo so, dimmi in che tipo di emissione usi, AM, SSB o cosa, FM? No, io non ho di questo, quindi ce le ho tutte. Quindi qualunque emissione ce l'abbiamo, però che di sotto non mi ricordo le frequenze, tutto lì, la zona di 500, non mi dire che 500 pieno, no? Quindi da 472 a 479 kHz ci abbiamo. Ah, 479 kg, sì, posso andare io. Ti rispondo poi sui 20, sul 27. Sì, sì, ma giusto un attimino se mi senti, non c'ho grandi pretese. Aspetta che... lo farò proprio per semplicità, ha detto una AM, così non mi devi neanche sintonizzare, non ce ne andiamo troppo là. Io sono a prova di pochi secondi, quindi ho detto se fai 475, così è tondo, là. 00. Aspetta un secondino che cambio la radio. Ma sto uscendo Gianfranco. Sì, basso di radio. Vabbè, questa è un'altra radio però, aspetta, perché sto usando un'altra radio un po' più grossa di quella di prima. Aspetta, come sono, come... Ma vai, di segnale come vado? È un pochettino più basso, mi sembra. Ma la radio è molto bassa, però funziona. Guarda un po', adesso iniziamo a ragionare. Vabbè, questa è standardizzata così, poi si può regolare, vabbè, lasciamo perdere. Allora, tu mi hai detto la frequenza è 475, così? Sì, 0.475. Allora, io sono a 475, e dimmi quando sei pronto così, esatto? Sì, faccio solo una leggera chiamata, perché è una frequenza secondaria, e anche se c'ho... potenza ridicola, però giusto per vedere se riesco ad arrivare lì, ecco, si potete sentire anche S1 o S0. Ok, provo, dai. Niente? Va bene, hai sentito qualcosa? Va bene, io adesso non ti sento. Gianfranco, se hai parlato non ti ho sentito. Sì, ho parlato, ti ho chiamato anche qua, guarda, lo posso fare anche per pochi secondi appena mollo. Ecco, niente. Prova a parlare, dai. Nada? No, Gianfra, niente, si muove un po' lo smitter, ma tu sei in AM, confermi? Sì, confermo, in AM. No, niente, si muove appena lo smitter, ma non ti sento. Facciamo anche la prova, là, in banda laterale, tieni presente che praticamente sono senza antenna, perché a quelle frequenze non è così semplice accordare. Lo so, benissimo, cosa provi, USB o LSB? LSB. Ok, ma prova. Niente, nada. Niente Gianfra, sento un po' lo smitter muoversi, però non percepisco niente. Se puoi alzare un po' la potenza, prova. No, assolutamente. Non è possibile per il semplice motivo che sono senza antenna, praticamente. Cioè l'aereo c'è, però è per gli 1.8, ho capito. Se vado a 1.8 mi dovresti sentire senza problemi, ma devi sono accordato. È talmente bassa la frequenza. Sono un po' particolare, queste cosa lì sono sommergibili, queste frequenze così basse. Sì, ci sono in CV di norma. Anche assegnate a secondaria ad radioamatori, ma sono pochissimi che operano di lì. Faccio una chiamata di prova, siamo parecchio adesso, lì sono accordato e posso anche dare troppo senza dubbio, ma mi interessano le basse potenze e poi ti spiego perché. 1.845, che è possibile? 1845, emissione AM o come? Anche AM, tanto ti dico prova e basta, non è che siamo lì a chiacchierare. Aspetta che un po'. Dammi il via quando sei pronto. Allora, 1845, aspetta, sto sintonizzando l'apparecchio, esatto. Allora, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.845, eccoci quasi, .00, ok, quando sei pronto dimmi. Io sono sempre pronto, quindi vado, Vai allora. Qua? Senti, non mi devi mai sentito. Sì, ti ho sentito, Santiago 9, regolare. Santiago 9, la potenza è all'incirca 10 watt. Per quelle bande sono quasi nulla. Chi è? C'è qualcuno? Chi è avanti? Aspetta che cambio radio che qua tra commutatori e eccetera eccetera, ossia che faccio danno. Mi metto di nuovo con l'altra, Gianfranco. Sì, forse è meglio. Mamma mia, come sto? Meno mio, sto fuori, sempre intanato, sì. Io lo sto sempre facendo, ma ogni tanto ascolto anche a voi. Ma sono tanto sono salutati, là. Fatte. Proprio Penisella. Senta Cagarella. Allora sono, ciao Fabio, senti, adesso sono normalmente, dai. È un pedivella questo Claudio, spalliero. E beh, buonasera a tutti, là. Ciao Tattalino. Luca. Lui a chi è? Roberto. E a Roberto. Ecco che Salvatore era amico nostro, quello che faceva gli scherzi con te. Salvatore? Quello che faceva con lo scherzo, te ne hai di spiccio. No, non lo sento. Non mi senti, Luca? No, beh, ammazza, sei troppo alto, cavolo. Troppo alto? Non ho toccato niente, no, cosa dice? No, non gridare, sei un bel alto, mi roba. No, non mi ha detto niente, vabbè, forse sono un po' più vicino del solito al microfono, adesso metto a un metro, guarda un po' adesso. Ti sento un bel alto, che è? Non lo sento, dov'è? No, ti sto dicendo, se te lo ricordi, ora non lo sento. Ah, certo che me lo ricordi. Lo sapevi che è morto. L'ho visto che l'ha messo male. Io l'ho visto un po' di volta all'ospedale, era un bel gonfio era. E di cosa è morto? Tumore? Boh, non si sa, adesso gli fanno l'autopsia, è morto avanti ieri, sabato proprio, sabato mattina. Sabato pomeriggio, non sabato mattina. Stavo aspettando infatti il necrologio, ma ancora non c'è niente, cioè non era ancora fatta l'autopsia. Vabbè. Non si sa, vabbè, non si sa di cosa è morto. Ma a casa sua l'hanno trovato morto all'ospedale? No, in casa, infatti non voglio telefonare a casa sua, a fratello, sanno un giù qualche informazione, infatti dai, mio fratello è venuto a saperlo per via traversa. Ho capito. Sì, lo vedevo spesso e volentieri all'ospedale. Io mi ricordo quando era ricoverato il padre di Marina, andavamo lì a trovarlo e poi c'era questo tipo, poveraccio, era tutta a chiazze, no? C'era un tumore questo qua, era pieno forse. E tu lo vedi tutto a macchie, tutto a chiazze nelle gambe, tutto. Infatti la moglie lo disinfettava e poi è morto anche quello. Vabbè, poveraccio, dai. Ok, scusate, l'intromissione. Ciao Natalino, comunque anche a te. Ciao Robè, ben entrato, buonasera. Io una volta stavo lavorando al comune, al verde urbano, me ne passa lui con quella motocicletta, si ferma, mi dice, cazzo fratello, ne hai di erba? E viene un campo, nel cazzo che storia, adesso ce la fumiamo tutta. Era un bel desiderio, era simpatico. Ma già frate, vabbè, ha ragione Luca, mi sei troppo alto di radio, bassa appena, stai per strappare. Guarda Claudio, è perfetto. Vabbè, sei troppo... forse qualcosa è toccato. Lo sai cosa ho fatto? Mi sono messo una sedia più in alto, siccome mi ho preso una sedia agevole più alta, anche era più in bassa, probabilmente per quella cosa non toccare niente. Mi siedo giù, guarda adesso, ho cambiato qualcosa. No, sto facendo male, Robè. No, abbassa il mic gain della radio, è troppo alto. Io non ho toccato niente, guarda, sono a uno, non lo so cosa sta succedendo. Lasciala uno, vuol dire che quando hai messo a posto, che hai fatto quei lavori, magari non te ne sei accorto, hai leggermente spostato il mic gain e stai per andare in distorsione. Vabbè, dai, distorcetevi tutti, buona serata, arrivederci, buon viaggio a tutti. Viaggio di live, non oggi fai in radio. Ciao. Prova, Robè. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, boh, io sempre così a 1, sei 1, addirittura è poco meno di 1. Ah, sei perfetto adesso. Ciao Claudio, fai, noi siamo qua. Adesso anch'io mi sposto, vado a farmi una doccia, dai, riprendi la calì. Sì, spagni, accelerare di quegli spiccioli che ci compriamo l'erba e ce la fumiamo. Spiccioli arrotolati, poverino, che un mese fa ci siamo sentiti al telefono. Stavo cercando se avevo qualcosa da darle per fare un po' di attività, ma non ci avevo niente da darle. Ma dimmi tu che come è destino, avevo proprio pazienza. Grande, Salvatore, nato le zone assieme, sentivamo spesso, pazienza. Purtroppo la vita è così, si vive e poi si muore. Dai, io lascio il cambio a Gianfranco, vi ascolto volentieri, ma non riprendo, dai, sono entrato solo a salutarvi. Ciao. Luca, buon proseguo. C'era anche Gianfranco, ciao Gianfranco. Ciao Natali, ciao Claudio, ciao gli altri. Un attimino di bianco per me che sto ascoltando da un'altra parte. famiglia, intanto anche io tra poco alle 7:30 devo sbloccare. Beh, Natalie, che mi dici tu? Che ti dico in che senso? No, dico, è un po' che non stavi entrando, ieri sei entrato 10 minuti poi attaccato. Sì, lo sai come quando uno di sui va, mi va a saburo la gana. Non sto manco ascoltandomi, perché no, molte volte non ne vogliono, accendo luce. Vediamo se c'è qua, Luca c'è ancora, Luca no, vediamo se vuole entrare qualcuno, ha detto nel canale 10, chi vuole entrare avanti, se no riprendi tu Natale. Ecco, a quanto pare non c'è nessuno, e vabbè, no problem, capito, allora sai quello specchietto me ne esci da tutta la gomma, che? E mi si visa di aria, ma fa mullarlo. Ma lo specchietto, non ho capito. È lo specchietto della macchina mia, non c'ha quella gomma. E ne è uscita dall'attacco che c'ha lì, magari vorrebbe incollato, non lo so. Però ci vuole quella tenaglia che c'hai tu, perché io non me la trovo. Ce l'avevo anch'io una tenaglia di quelle lì, per poter mollare lo specchietto. Non ho capito, cosa vuol dire te ne è uscita la gomma? Quel soffietto che c'è, c'hai? Sì. E beh, non riesci a infilarla. No, non ci riesco, non sopporto, sono debole. Volevo smontare lo specchietto per metterlo bene. Avvicinati quando vuoi, tanto 10 minuti ci vogliono. Ecco. E radio questa Natale questa. Come? E radio sta utilizzando? Quella solita, quella a nittone. Sì, no, il microfono volevo dire. Ah, il Turner più 3. È bella, bella piena la modulazione. Sì, ed è mazzo pure, perché dice che si sente più i rumori che la voce, mi stava dicendo Gianfranco, allora l'ho abbassato, sarà 2. Ma stai arrivando anche a 9+20, con i picchi lo superi pure, anche è bello il segnale. E sto usando 2,5 watt, mi aspetta che aumento così te ne rendi conto. No, non riesco. Guarda un po'. Cacchio, sei salito a 9,25 con i picchi quasi 9,30. Hai visto, stavo usando 2,5 watt, perché io lo uso sempre basso, aspetta che abbasso che sennò qua lo sai che disturbo, non è altro. Ma me l'ha vedato questo fatto della radio, i micchireni ce l'ho a 1, adesso l'ho messo a meno di 1, possibile che di colpo sia diventato più forte. Vabbè, sono con una sedia più alta rispetto a guadagnato 15 cm, in modo che ce l'ho direttamente in direzione della bocca al microfono. Ascolta, adesso sei perfetto, poco fa eri troppo alto, già è vero già. Vuole meno di 1 nel 44. Io lo usavo meno di 1 perché se lo usavo, lo alzavo appena appena, andavo a strappare subito. Ma ho sempre sentito così, comunque c'è un break, avanti il break. Buonasera a tutti, doppio rum. Ciao già, Rosio però c'hai. Guarda adesso. Vai a parlare. Guarda. No, adesso a posto. Già lo so che cosa. Mi dimentico sempre di comprarvi quel tappetino per il mouse da mettere sotto, perché questo microfono ha quel problema lì, che se lo metti vicino all'apparecchio è un ronza. Ciao Natalino, ciao tutti gli altri amici e auguri al vecchietto. Via, oggi se lo volete sapere è il mio compleanno. Gli anni me li ha fatti, gli auguri. Vedi, io non lo sapevo. Auguri Robè. Mi sono offeso, cacchio, proprio tu Natale, una persona che ci tenevo. Sì, se mi dagli una bacia offesa. Robè, e cosa, non lo sapevo che facevi il compleanno, se no ti avrei fatto gli auguri. E li ho fatti adesso, non c'è problema. Grazie, Alberto, scherzando. Guarda, è che non me ne ho fatto nulla. Mia figlia mi ha organizzato la festa, adesso infatti fino alle 7:30 rimango, perché poi dobbiamo fare gli ultimi ritocchi e se non ci abbiamo invitati a casa ci sarà un po' di confusione. Aspetta, se rimango 10 minuti in radio. Quanti sono? Ah? Indovina. Oh, 55. 5,8, grazie 55 magari. Vabbè, se te li porti bene. Si invecchia già, l'importante è essere giovani di spirito, quello sì. E l'importante è sempre invecchiare sani. Se non invecchi vuol dire che ti sei filmato. E già lo grido. Avete visto una cosa, una vignetta che mi ha fatto troppo ridere. C'è Gesù in paradiso, bisogna dirgli a fila che muovendo troppo niente, troppo niente non viene più di lungo. Io ho visto invece quella. Praticamente dice, esiste una donna che cambia l'uomo e poi c'era scritto sì, la badante. C'è qualcuno avanti che chiama? Chi sei? Attention, my friend. Ho capito, attention, please. Do you copy Italy, Sardinia e Italia? Yes, I copy you, Italy. This is North Alemania. Ma questo mi sembra qualcuno italiano. Perché hai parlato in inglese già? Italiano. Mi sembra quello di Alghero, Mirko. Mirko, tu sei? Ho messo un po' basso perché arrivava 9 ultimamente, a meno che non abbia fatto altre modifiche dell'antenna. Io ho capito che era un inglese. Quando ti arrivava? Santiago 4. No, a me era Santiago 8, però quello di Alghero arriva a 9. Mi sembrava lui da lontano. Avanti, chi chiama? Hello Italy. Chi sei? Nominativo, grazie. This is North Germany, Bremen. Ti sento male, sei mezzo al QRM. Santiago 8, però radio 1-2, non ti capisco. Cosa, come ti chiami? Avanti. QRZ, my friend, QRZ. Oh, Italy from Sardinia. QRZ, my friend. Do you copy North Germany, Bremen? Germania. Adesso si è sentito bene, dai. Penso, my name is Roberto, compagnia di Gianni e Natalino, QSL. Penso Germany, do you copy Sardinia Island, QSL. Your name please, non riesco a capire. Il segnale è forte, 8, 9, però non capisco quello che dice. Io non capisco bene. Parla troppo veloce, K. No, ma se tu a City, qual è tua City? You are City. City is Bremen. Ma mi sembra una bella da un mondo, oggi che mi sembra un genio a me. Ma non può essere un genio perché arriva basso questo. Ma non è da che parte, mi sembra la voce di un genio a me. Vabbè, lascialo qua. Si diverte se lui. Allora, vabbè, io la prendo per buona. Ma Eugenio, tu sì. Ma che Eugenio mi arriva l'opera? Sì, anche 9-10 arriva Eugenia, ma se si mette col camper, magari in un posto dove non c'è segnale, magari arriva più basso. Questo sono parte tedesco, che può essere che sa parlare. Ho detto due parole, ha parlato in inglese, però ci vuole poco a dire due parole in inglese. Vabbè, peggio dai, se vuole entrare. Vai, aspetta, c'è Gianfranco, vediamo se si è liberato. Gianfranco, ci sei ancora? Sì, ma sono impegnato sull'altra gamba. Ok, come ho detto, allora dai, ma proseguo io qualche minuto e poi vi devo lasciare. Vai di nuovo Natalino e poi far girare per Gianni. Capa, io non lo sentivo, c'ho l'antenna bassa, no, non è colpa mia. Purtroppo c'ho l'antenna che non funziona. Attacca la ringhiera, non c'era una ringhiera Natalino. Basso, esce 2 metri dal tetto, non di più. Purtroppo ho la ricezione limitata, non ci posso fare nulla. Se non puoi salire sul tetto non puoi fare nulla. Hai visto quella che ha preso Claudio, 8 metri l'antenna, che è 7 ottavi mi pare, e spara bene. Quella lì ti dovresti mettere perché esce un bel po' dal tetto. No, intanto risulterebbe sempre bassa, capito? Perché è il palo che è basso. Più alto non lo posso mettere, già un déjà vu, figurati. No. Secondo come pare tolgo tutto e tanto mi. Molte volte non me ne viene voglia manco da accendere, quindi non ho nessuna intenzione di fare nulla. In più disturbo torna a quanto ho capito e non mi va. C'era fatto di non disturbare, magari entravo di più pure, ma a me di bisticciare con la gente, finish. A Giovanna mi venga a dare un altro infarto. Natali, comunque quella lì è di 8 metri l'antenna, non so se mi hai capito, non è 7 metri, è 8 metri, c'è un metro in più. 8,50 m per esattezza, 7 ottavi. Vabbè, comunque è più alta della mantova, più alta della giantella. Sì, ma è un casotto a paraneghiccia. Sturzi non ne posso va, a chi non ne posso va. Sono debole, già mi do buca rasura, figureggiati su questo cavanni d'antenna, ui. Lascia stare tutto Natali, poi i problemi già si risolvono. Sto facendo Gianni, tu hai quello del Salvatore, l'amico mio? Chi maestrato? L'altro Salvatore, dai, quello che faccia gli scherzi con lui. Eia, sì. Qualche spicciolo ce l'ha? È morto, lo sapete. Morto? È l'altro giorno, sabato sera. Ah, vero. E che te l'ha detto? Chi te l'ha detto? No, è figlio di mio padrino, già lo so con sicurezza. Ti stanno aspettando, non voglio telefonare per non disturbare in famiglia. Adesso gli stavano facendo l'autopsia, forse oggi la facevano, così si sa qualcosa cosa è successo. Ma si è fermato, guarda, io l'altro giorno, l'altra volta era al quadrante, si è fermato con la macchina e stavamo parlando e cose. E niente, sembrava tranquillo, se non aggiunto qualche fatto perché era ingrassato un bel. Quando l'hai visto, dimmi, no, per capire, quanto tempo fa l'hai visto? Guarda, io avevo già l'antenna in questa macchina nuova, quindi, penso 3 mesi fa, 4 mesi fa. Ah, non l'altro giorno, lo pensavo recentemente, no, l'ho sentito anch'io, prima di andare in ferie, verso maggio, giugno l'ho sentito. Io non l'ho più visto, e prima Agata lo vedevo sempre. Se una volta me ne è venuto a raccontare, te l'avevo, Robè, quella di quando stavo lavorando al verde urbano. Cata, stavamo tagliando l'erba con i giardinieri e tutto. E viene lui con la sua motocicletta, si ferma e mi dice, frate, ma ne hai erba? E viene un campo in un gabaidante, mi siamo tagliando, i cazzo che studi, allora ce lo fumiamo tutta. A me faceva morire quando si metteva con Luca a fare il tossico, quello faceva il cagliaritano e lui faceva il tossico, tipo come lo facevano Pino gli anticorpi, eccetera, eccetera, proprio simpatico, purtroppo. La vita è così, mi dispiace tantissimo, perché a parte, non dico proprio parentela, ma quasi, perché ci conosciamo da sempre, il padre e la madre erano mio padrino, mia madrina, tutta la famiglia, sono sfortunati con la famiglia, anche il fratello ha stesso problemi, la moglie del fratello, eccetera, eccetera. Però ultimamente era senza lavoro, mi aveva detto che non stava lavorando e stava aspettando che vivesse la pensione. Già lo so, poi mi hanno detto che era anche diabetico, si è ingrossato un bel, diciamo purtroppo ha avuto anche problemi familiari, eccetera, eccetera. E tu con che macchina era quando l'hai visto tu già? A ricordarmela adesso, mi sembra che aveva la stessa un velo. Non era a piedi comunque? No. Già, oddio, l'hai visto quando stava un pochettino meglio, dai. Peccato, purtroppo, quello che è successo, lui era l'allevatore, già lo sai. Sì, lo so, io l'ho conosciuto a casa di Natalino e faceva i contest in inglese, era anche bravo parlando l'inglese. Super veloce, non so quanti collegamenti riusciva a fare, io l'ho visto una volta, è venuto a casa mia, andate a vedere, ogni velocità, chiamandomi, lo rispondevano subito. E anche io l'ho visto, a casa di Natali lo faceva il coso, te lo ricordi Natali che ci aveva, avevate il coso, il programma per sapere dove c'era la propagazione? Sì, eravamo collegati via internet, si vedeva, andava a colpo sicuro. 180 metri ha dovuto fare la lista perché tutti volevano parlare con la Sardegna, dimmi tu, e allora li chiamava per nominativo in inglese, via, ma Rosante era veloce, un mostro era, facendo collegamenti, io stavo al computer, al cluster, e lui parlava, cavolo, uno o due collegamenti abbiamo fatto assieme. Il primo apparecchio me l'ha venduto lui, 14 me l'aveva venduto lui tanti anni fa. Mi piace un bel poveraccio. E prima era messo bene, era, lavorava con l'industriale, c'aveva la moto grossa. E poi l'ho visto un po', diciamo, stava decadendo un po', nel senso che era un po' trasandato. E lui ha avuto poi problemi, è andato fuori a lavorare, poi è rientrato qua, portatore del sapello, non so per quale motivo, l'agenzia di lì si è rovinato, è finito male tutto, e si è mangiato tutto e si è trovato in difficoltà. Mi dispiace anche a me, io l'ho conosciuto bene, però una volta che gli ho fatto l'antenna non c'è più salito in campagna e quindi ci siamo persi di vista, perché se no saliva sempre da me a farsi di ex e tutto. E ci conoscevamo con Salvatore, poverino, mi dispiace un sacco. Quanti anni avevano? Io pensavo fosse più piccolino, dovrebbe averne sui 50, dovrebbe averne, 55 più o meno. Era un bel giovane, raga. Sì, quando ha preso l'agenzia di viaggio a Porto Torres, me l'aveva detto, perché è venuto dove lavoravo io, in pescheria, e io stavo vedendo, cioè, stavo in pescheria ultimamente, no? E è venuto a comprare del pesce e mi ha detto che praticamente si aveva aperto questa agenzia di viaggi in via Lungomare. Sì, mi è andata a finire male, poi avevano rubato, sono entrati, avevano rubato roba, un sacco di cose. Cazzo, è sfigato, poverino. E mi dispiace, dai. Io la conosco da quando siamo una, da bambini ci conosciamo, per cui ho tutta la vita sua, purtroppo. Così ci sono quelli più fortunati, lui è stato un po' più sfortunato di altri. Ok, vediamo se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare, io ho ancora qualche minutino e poi blocchiamo la trasmissione. Attenzione, 10 che vuole entrare. Fai Natale. Alle 8 volevo dire anche io, che devo portare il cavallo. Ma te ne c'hai il cane tu adesso già? 6 anni. Ah, è piccolo, pensavo fosse più grande. No, no, è piccolino. E vabbè, ma diciamo che il cane che ho io vive dai 9 ai 12 anni. Avevano poco questo? Sì, sì, quelli sì. Anche quello di Claudio vivono, hanno una vita molto corta. Vivono di più quei bastardini. Ce n'è uno vicino a casa che ha 17 anni di bastardino. Addirittura il padre lo deve prendere in braccio, anzi no, 19, non 17, lo deve prendere in braccio e portarlo a fare i bisogni, appoggiarlo, lui fa il bisogno e poi non ce la fa manca a camminare, lo deve riprendere in braccio. Poveracci, già lo so, io ne ho avuto, gli ultimi che ce l'avevo io lo stesso hanno vissuto sui 15 anni, i bastardini sono i cani migliori, i cani più intelligenti, più affettuosi, questi di razza sono troppo delicati, mio fratello ne ha avuto decine di cani, gli unici che sono durati i bastardi, gli altri massimo 6-7 anni morivano tutti. E questo soffre di otite, insomma un po' di tutto, di più. C'ha un, come si chiama? Praticamente noi quando nasciamo, per prima di nascere, il sesso non è definito, capito? Lui è rimasto un pezzo del sesso femminile e gli fa perdere sangue, è una specie di cista prostatica. Ma poi lo sai cos'è di questi cani? Sono degli incroci sbagliati, molti di questi cani cercano di fare il cane bello tutto quanto e facevano soprattutto i giapponesi e i cinesi erano specializzati in questi incroci strani di questi animali qua e però perdevano le cose difese immunitarie eccetera eccetera, infatti si lamentano quello proprio le persone diciamo che curano i cani, si dice fanno questi incroci strani che contro natura per fare un cane piccolino con dei colori, con le orecchie qua, con il naso così, e però rovinano il DNA dell'animale. No, il mio è la razza base dello Sharpei, non è quello incrociato col ciucciù che fanno la razza americana. Lo Sharpei americano è quello che c'è il muso grosso, per intenderci, che si aprono in popotta, ma il mio è la razza base proprio, cioè quello proprio lo Sharpei originale. E niente, vive da 2000 anni, figurati, c'è da 2000 anni questa razza, poi ha avuto le sue evoluzioni, comunque già 2000 anni è stato esportato dalla Cina. Sì, ma poi lo sai cosa succede, per dire c'è il ceppo iniziale che è quello lì è pulito, poi l'avevo incrociato con un altro che magari non era originale, cioè dico originale per dire, non si dovrebbe dire, non era puro, e lì poi fanno i misculi, basta che sposti due o tre padri o nonni o bisnonni e di lì sfumusoli tutto, e il cane si indebolisce. Sono molto delicati, non fa darli secondo cosa da mangiare subito a diarrea, gli devi dare determinate cose se no li fanno male, la carne li devi dare o quella di cavallo oppure peti di pollo oppure reni, testicoli, no? Però se lo togli da lì vabbè, li carne di maiale subito li viene a diarrea. Lo so. Ok, vai Natalia, un paio di minuti così vi saluto, vai Natalia. Il mio non ha di quei problemi, il mio è bastardino e gli manca solo la parola di quanto è intelligente. Lo so, anche lui è intelligente, ma il fatto è che a me non mi si è mai girato il mio c'ha di buono che non mi si è mai girato. Quando si girano al padrone è brutto, perché io ho un amico che il cane gli si è girato a un pitbull e stava avendo parole con una persona perché l'ha trovata pisciando nel portone, questo mezzo tossico, l'ha trovato pisciando nel portone, gli ha detto cosa, il cane invece che morsicare a quello lì ha morsicato il padrone. Figurati, beh signori io vi devo lasciare, dai, devo fare cosa, c'ho ospite a casa, ciao Gianni, ciao Natalino e tutti gli amici qua su questo canale, curati da parte mia, ciao ciao, buon proseguo. Ciao Robbe, buon divertimento. Ciao Robbe, buon divertimento, alle prossime. Natalia. E tu quanto c'ha Natalia adesso? 6 anni c'ha. Ah, c'ha l'età, è l'età del mio c'ha. Ehi, così sono, ma sarà più piccolo di me il mio. Bisognerebbe guardare nel libretto per vedere quando è nato. E i canarini ancora ce li ha? Ehi, una coppia ne ho sempre. No, io li ho tutti venduti, tutti quelli che c'avevo, una ventina ne ho venduto. E con quei soldi lì mi ho comprato pappagalli. Sì, già lo so che mi credo quei pappagalli. Per dare il disastro. Sono bellissimi quelli. Adesso l'ho cominciato a parlare. Dice ciao, Romeo, come si chiama lui. Poi cosa dice? Vieni, perché noi diciamo vieni. Buongiorno, queste cose qua dice, sta cominciando mi fa. Sì, infatti, tutto quello che sente lì. E poi fischia la canzone della famiglia Adams. Così fa. Fate sentire. E poi fa. E chi tu me lo indiano? Chi fa via? L'allarme di la macchina tua già. Ah, l'allarme, sì. Io impazzivo, guardavo tutto attorno, ho detto, ma che cazzo, eppure non l'ho premuto l'allarme ancora. Un giorno si è affacciata questa signora e mi ha detto, questo delinquente che la fa impazzire, guardi, e mi ha fatto vedere il marrindiano con la gabbia, ce l'aveva interrato, lui mi teneva in terra, quindi non lo vedevo. Come ti devi dire, azionava l'allarme. E poi faceva anche il rumore dello sportello. Il marrindiano è molto chiaro parlando, sembra una persona. Ehi, già lo so, ne aveva uno il bar mai che ti salutava quando entravi. Qual è quello di via 4 novembre? La roba è Duca degli Abruzzi, il bar mai. Te lo ricordi il bar mai, che quello che c'era in via Duca degli Abruzzi? E vabbè, sì, già siamo capiti, via Duca degli Abruzzi, via 4 novembre in angolo rimane. Già ho capito qual è. Poi ce n'era uno alla Gradia, in quel bar che c'era alla Gradia, te lo ricordi? Che c'era il mello indiano, non lo so, il bar della Gradia, sì. Quello faceva il fischietto, fa il vigile, che me lo mandi a Brizzisu. Guarda quanto è buona quella lì. Che zia. Perché ragionano, anche, capito? Non è che io ripeto, non solo, ragionano, perché tu dici come fa il gatto, lui ti dico, miau. Ehi, anche quelli sono anche intelligenti, ma la sorte. Se non hai visto ti faceva l'allarme della macchina. Ma quando fa il fischio, le orecchie ti tappa, cazzo. Ehi, che potente, gli alzoni. Sono anche intelligenti quegli uccelli lì. Quelli ho letto che si accoppiano volando in aria, quindi non si potrebbero mai accoppiare in gabbia, in cattività non si possono mai accoppiare. Si accoppiano volando. Ma chi? Merlindiani? Via, o gracule religiose si chiamano. O merlindiano o gracula religiosa. E costano parecchi soldi pure, quelli. Costavano 350.000 lire, quando però te lo davano piccolo, con le penne e le piume che gli stavano appena crescendo, 350.000 lire. E figurati quanto costava un pigione del genere. E i miei non costano di meno, i miei costano 350 euro l'uno. Sì, cazzo, e lui sono davvero visi. Solo che quelli ripetono solo, i pappagalli ripetono solo quello che sentono. Invece il merlindiano è un bastardo. No, il merlindiano, se tu dici come fa la mucca, ti fa va il merlindiano, il pappagallo, ti dici come fa la mucca, ti dice mu, e come fa il gatto, miau, vuol dire che ragiona, non è che ripete solo. Adesso proprio il pappagallo ripete, magari è quella razza che hai tu che ragiona, non so tutti i seguiti, io sapevo che il pappagallo ripeteva solo quello che sentiva. Allora il mio è anche, i miei sono anche una razza che sono molto chiacchierone, parlano molto, e giocherellone, si vede giugendi. Un giorno ti mando i filmati a farti vedere giocando con la mano mia. E diciamo che sono particolari. nettari perché sono nettarini, capito? Mangiano nettare, nettare dei fiori, miele, questa roba qua, e quindi bisogna comprare mangime composte. Io puoi fare anche tu, però bisogna sapere le gradazioni, tutto quanto, un casino, li metti in via e si appiccica tutto al becco. Io ho provato, ma non conviene, conviene comprarlo e basta. C'è la polvere della mia, ti metti un po' d'acqua e gli fai il pastoncino, tipo yogurt, così, e loro lo mangiano da lì. Sì, se no diventi matto di fare mangime ai miei. Papà, sono simpatici, la mattina, ciao! Titolo ciao! Sì, sono belli, sono. Tu li hai visti i colori che hanno qui? Sono tra i migliori di colori che ci sono. Sì, li ho visti, già li ho visti. Già. Un po' di pazienza ci vuole, perché a me me ne hanno dati non quelli allevati a mano. Praticamente ci sono allevati a mano che tu li togli alla mamma e li devi mangiare con la siringa, no? Quindi quelli si abituano all'umano e sono addomesticati già, quindi quando te li danno sono già tipo sulla mano, sulla spalla, roba del genere. Invece me li hanno dati allevati dai genitori e me li ho dovuti fare io a modo mio. Cioè già addestrati, però un po' di pazienza ci vuole. Ti credo, quando sono così li hanno fatti piccolini e quindi se li hai dovuti allevare tutti, poi la mamma gliel'hai fatta tutti. Ma praticamente i miei erano selvatici, capito? All'inizio scappavano. Adesso vatti sopra sulle spalle, tutti i bassi, ti posso dire fotografie sopra il piede, da tutte le parti, ma tolgono gli occhiali, lui ci ha rubato in bocca. A chi ti rubate negli utenti? Questi sono un bel giocherello, non stanno un attimo fermi, stanno sempre qua, ci mettono la panza all'aria, con la femmina si mordono la zampa, uno la spinge con la zampa, qua si rivedi, è una cosa allucinante, sono troppo simpatici. E beh, certo, ti danno altre soddisfazioni. Purtroppo. Vabbè, i canarini un po' mi è dispiaciuto perché cantavano bene, mi hanno dato tante soddisfazioni, ma mi sporcavano tutto il muro, c'erano i pro e i contro. Ho dovuto verniciare tutto quanto, pitturare bene dove c'avevo lo scaffale. Adesso c'ho la gabbia grande e quella me la venderò, ma non so se adesso ci metto di quei pappagalli, come si chiamano, inseparabili, e quelli parlano lo stesso, mi se gli insegni parlano anche le cucurizze, lo sapevo? No, quello non lo sapevo. Tutti i tipi di pappagalli parlano, se la cucurizza la prende da piccolina gli insegna a parlare e parla. Io li ho visti i filmati, le cucurizze a parlare. Adesso si sa. E sono andato a aprire la porta che è arrivata mia moglie. Ah. Perché siete il carabaiando. Via. Sei bravo e fede là. Eia, ha imparato anche ad andare da solo a fare la pipì. Lui mi avverte, io glielo chiedo a vedere cosa vuole. E lui mi risponde, lo mando. Se deve fare la pipì, lo mando da solo, lo guardo dalla finestra. Dai, io non... Lui fa la pipì lì e poi se ne sale da solo. È bravissimo, è intelligentissimo. E una cosa, guarda, gli manca solo la barata, eccetera. E lo sai cos'è? Che un ricco magari trova qualche cane grosso, e quello è il problema, se non per lui no. Già lo so, infatti non esce dal vicolo, no. Quando lui fa la pipì se ne sale. Oh via! E quindi anche l'ultimo paese, non so se lo riportano giù. Perché io gli ho detto, mamma, c'ho la bua, non può venire sempre a accompagnarti di vazio io. E allora mi ha giù convinto e farallo. Ma che ti guardo dalla finestra. Lui mi vede che io lo guardo, no? E allora si mette, alza la gamba, gli fa la pipì e poi se ne sale. Questo. Altro ti sei ripreso da te. E già mi sono ripreso, l'ho portato anche in giro poco, ero fuori fino a poco fa, e adesso ho peso 60 kg, prima ne pesavo 52, ma è arrivare a 62 a bloccarmi così la dottoressa. Vabbè, è il fatto che non puoi messo più là, non è che puoi mangiare più di tanto. No, io so come niente, di tutto, e ti penso così, la glicemia è sempre tranquilla. Io di che tu tanto non matta, l'insulina ne faccio pochissima, ne faccio 4 unità, e 2 da 4 unità ne faccio una da 3, quella che devo fare adesso è da 3 per esempio, e 6 di quella lenta la notte. E vabbè, ma se si all'inizio ancora, io la notte ne faccio 40, di giorno ne faccio 28, 27. E beh, cazzo, sono messo. Lo so, però se la faccio così mi sale un bel... La notte, poi adesso, prima la regolavo bene, adesso la mattina ce l'ho sempre alta. Cazzo, supera sempre i 200. Prima me la regolavo bene, 135, 120 stamattina, adesso sempre alta. Non comprendo qualcosa, vabbè. Sto anche un po' straffando, nel senso che d'estate ti mangi gelato, ti bevi una menta, una cosa, e sono sciuppi, quelli lì sono zuccherati. No, vedi, io ho già fatto quelle cose, non ho detto mai né gelati, assolutamente non ne ho mangiato. Ma la roba da mangiare, quella normale, la mangio tranquillo. Perché se non mangiavo rimaneva 52 kg, era una larva umana. Se non stavi bene, anche io quando sono uscito all'ospedale lo stesso ero un bel magro, non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Cioè ti lamenti come tiro. E io lo stesso, una debolezza tremenda. Ci avevo, quindi no, e lo dovevo fare, purtroppo. Ma già mi sto riprendendo piano piano, sono già arrivato a 60 kg. Ma infatti, interessante che sia una cosa da dimenticare. Anche da giù passato, povero me. Adesso mi è guarita anche quell'ulcera, meno male, non mi sembra vero. E infatti, pure lui hanno abbassato. Io ho avuto 3 ricoveri, 2 operazioni che hanno di medù. No, a me l'ulcera mi è passata con loro collaudare. Devo ringraziare quella persona che me l'ha fatto. Loro collaudare, dopo 5 anni mi ha fatto passare l'ulcera. E meno male che ci sei riuscito. Al manco puoi camminare tranquillo. E la sa di me manca da raga, gatta giù, a giù mamma ammazza. Non c'è più equilibrio, è un macello già. La vecchiaia si fa sentire purtroppo. Ehi, la tale interessante sentirla, te l'ho detto, sì sì. Se si invecchia vuol dire che si vivi, se no vuol dire che si vivi. Cosa vuoi fare? Dobbiamo condividere con gli acciacchi, tanto sono acciacchi, vabbè, che ci si può passare sopra, non sono cose gravi gravi, là, ce l'è peggio di noi. Sì, già lo so, l'unica cosa che mi funziona bene è la picchiriola. Bisogna chiederlo a Concetta per essere vero. Concetta, già mi ha detto se mi funziona bene la picchiriola, diglielo. Benissimo. Vabbè, allora va bene, Natali. Sono contento per te. Lui, Gianca. Anche quello ha un termine. Ehi, già lo so. Però ancora già mi l'ha rotto. Sì, vabbè. Quante ne tieni di pastiglie? 5 al giorno ne pigliavo, scusi, 5 al giorno. Quelle per la pressione, per il colesterolo, la cardiaspirina, bilio. E 5 ne bilio. Oh, pastiglie di Viagra, stai. No, di quelle manco una. Quello così là, tanto farò male. No, se la prendo io, quella lì è come che mi spari in testa un colpo di pistola. Beh, no, che cardiopatico non è da pigliare. Vabbè, dai. Se la vi Natali. Arrata finta grandu bui. Cosa? Ha detto arrata finta grandu bui. E arrassemmo, a caso che ti dica. Vabbè, là. Mi sa che io scendo a portarci il cane, sta lamentando la talità, dove se deve andare? Stamattina l'ho portato presto, dovevo portare la macchina a fare il tagliando. che K porta, lo dà. Tanto io adesso mi misuro la glicemia in mani. Tanto non c'è nessuno. E poi a quell'ora io devo saluto. Magnemmo. Ci sentiamo, dai già. Buon proseguo alle prossime. Salutoni anche a Gianfranco se in ascolto. Io me ne faccio in QRT. Bene, alta vita, ci sentiamo. Buona serata e buona carica quando la fai. Ci sentiamo, io vado a prepararmi, ma ne siamo poi giù.